Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari radioascoltatori. Come avete sentito precedentemente, oggi si parla di cipolla, perché prosegue, diciamo, il nostro gioco di personal chef, mandare le ricette a base di cipolla, e noi sulle 300 così ne abbiamo selezionato un paio perché veramente erano tante. Ebbene, oggi abbiamo con noi Davide Oldani, lo chef Davide Oldani, e non è un caso, anche perché lui ha un piatto a base di cipolla che è diventato famosissimo. Dopo parleremo con Davide anche del suo piatto, però buongiorno Davide innanzitutto. Ciao, buongiorno a tutti, ciao Davide, grazie dell'invito. Allora, cominciamo a parlare di una delle ricette, che è calzone agrodolce di cipolle pugliesi, mandato da Giovanni Carbonara. Io non so se Giovanni Carbonara è in ascolto, però se si vuole collegare con noi, 800 24 00 24, magari anche con SMS se non vuole intervenire, se magari fosse timido, 349-238-6666. Allora Davide, tu hai visto questa ricetta, cosa ne dici? Ma allora, la stavo studiando un po'. Anzitutto complimenti, perché è una ricetta ben spiegata. Ho due o tre appunti da fare. Il primo è quello della stagionalità dei prodotti, sui quali io sono molto, molto severo, perché nella mia cucina pratico una cucina di stagione e una cucina di prodotto. Potrei dire che è una ricetta stagionale, però è altrettanto vero che con alici salate, sott'olio, cipolle, con la particolarità di poter usare non solo le sponsali, che sono una cipolla particolare che poi descrive nella ricetta, e l'uva sultanina, credo che sia un piatto fattibile anche in tutto l'anno, utilizzando più o meno l'uvetta sultanina, le cipolle appunto e le alici sottosale. Ho visto che il procedimento è fatto quasi, credo, da un professionista a questo punto, perché è specificato ai vari gli ingredienti per la pasta specificati, gli ingredienti per la farcia molto specificati e chiari, con le grammature giuste. Quindi complimenti per la descrizione. Ci sono un paio di passaggi dove ho visto un utilizzo con abbondante olio. Io credo che nelle ricette oramai non bisogna più scrivere abbondante olio, abbondante burro, perché la tendenza sia quella di una cucina buona di gusto, però con tanta leggerezza. E poi una particolarità che mi piace, che naturalmente ho provato a fare anch'io, è questa pasta frolla zuccherata in un piatto salato. Bene, allora complimenti a questo Giovanni Carbonara. Giovanni Carbonara, se ci sei, batti un colpo. Quindi te lo ricordo, numero verde 800 24 00 24. Ma a proposito, che diciamo che questa ricetta è calzone agrodolce di cipolle pugliesi, e abbiamo parlato di cipolle sponsali, io ho in linea Simone Saturnino, che è direttore del consorzio di tutela della cipolla rossa di Tropea di Calabria. Buongiorno Saturnino. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Ha sentito, insomma, la prima ricetta che abbiamo visto, ma anche altre, sono tutte a base di cipolla di Tropea. Ma queste cipolle sponsali cosa sono, Saturnino? Guardi, le cipolle oggi si possono trovare nei modi più variegati, a livello di colore, a livello di tipologie. Noi come Cipolla di Tropea abbiamo le seguenti tipologie di prodotto. Abbiamo il prodotto fresco, ovvero il cipollotto con un colore che va dal rosso al rosato, e poi abbiamo il prodotto secco, la classica treccia di cipolla, particolare perché una volta raccolta viene lasciata al sole per 7 giorni e poi viene intrecciata. In questo modo la cipolla si può mantenere anche un paio di mesi. Il nostro è un prodotto fatto per essere consumato crudo, in quanto è dolcissima, è croccante e ha un sapore che si abbina molto bene, quindi al pomodoro, quindi anche abbinarla con le mozzarelle. Bene, Saturnino, io la ringrazio, ma voglio anche arrivare su un secondo punto. Mi ricordo che un paio di anni fa io l'avevo chiamata e lei lamentava appunto le false cipolle di Tropea. C'è ancora molto falso in giro? Il falso, in pratica, noi con il consorzio di tutela e con il marchio di indicazione geografica protetta e le attività di comunicazione che facciamo, cerchiamo di portare il consumatore a fidarsi solo del prodotto certificato. Quindi anche se può circolare del prodotto denominato Tropea in giro per i mercati, noi quello che comunichiamo è: guardate che ci sia il bollino, guardate che ci sia il bollino europeo e il logo e la scritta cipolla rossa di Tropea Calabria GP. In questo caso il consumatore può essere sicuro, garantito, di avere a che fare con quel prodotto dolce, fragante e croccante. Ma io voglio raccontare un aneddoto mio personale, perché per dimostrare come la, diciamo, la notorietà della cipolla di Tropea sia diffusa in questo paese. Un giorno ero in un piccolo borgo della Toscana e mi sono avvicinato a un banco di frutta e verdura, era un mercato, e devo dire che c'erano delle bellissime cipolle rosse, e ho chiesto appunto la provenienza e mi hanno detto Tropea. Ho detto: ma come, siamo in Toscana? Dico: Tropea è abbastanza lontana. Morale della favola, ha insistito che era Tropea. Poi dopo un paio di settimane che ero andato più volte in questo banco, il signore mi ha detto: bene, le devo dire la verità, questa è una cipolla nostrana, una cipolla toscana, perché si assomiglia molto una cipolla tradizionale toscana a quella di Tropea, diciamo che è molto somigliante. Lui mi ha detto: però se io dico cipolla toscana nessuno la vuole, se dico cipolla di Tropea tutti me la chiedono. Ma bisogna, quindi, crederci poi nei nostri prodotti, appunto, no? Ma sentiamo Giovanni da Bari, un radioascoltatore. Buongiorno Giovanni. Ma lei è lei, Giovanni da Bari, è l'autore della ricetta, eccolo qua. Buongiorno Giovanni. Buongiorno, anche se devo dare credito più che altro a mia nonna, che è la vera autrice della ricetta. Beh, ha sentito i commenti di Oldani, commenti lusinghieri, devo dire. Sì, sì, sì, infatti ti ringrazio, anche da parte di mia nonna, che ovviamente purtroppo non c'è più, però ecco, ha tramandato questo calzone che adesso noi rifacciamo gelosamente con la ricetta appunto fedele. Ma lei la fa spesso questa ricetta? Beh, noi le facciamo spesso nel periodo di carnevale, ormai è una tradizione, e quindi ogni anno la si fa in grande quantità e la diamo a parenti e amici, facciamo delle grandi mangiate a casa, ecco, una specie di festa. Ecco. Questa è una ricetta originale o ha messo qualche accorgimento più nuovo, più leggero lei? No, allora, io ho ricalcato fedelmente quello che ricordo della ricetta di mia nonna, che era abbastanza, diciamo, già di per sé originale, perché il calzone in Puglia lo si fa abbastanza con le cipolle, solo che questa variante, specie nella pasta, è particolare appunto di mia nonna. E questa pasta mi conferma che è una pasta frolla, quindi una pasta con... C'è una parte di burro oppure non c'è burro dentro? No, esclusivamente olio di oliva... extravergine fatto da noi, okay, perché pasta frolla nel termine culinario è un po' più burrosa. Sì, ma infatti questa è una variante. Beh, col vino, tra l'altro anche col vino bianco, che dà una croccantezza, un sapore del tutto particolare, che possiamo anche riscoprire ad esempio nei tarali pugliesi, che è... Bene Giovanni, lei sembra molto esperto, mi sembra che sia del settore, Giovanni. Comunque... No, assolutamente, sono un appassionato bene, di cucina. Bene, ecco. Comunque complimenti a Giovanni appunto di questa ricetta. Devo passare la linea alla regia, mi scusi, e torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di cipolle. Beh, sappiamo che in questo paese ci sono molti personaggi, anche famosi, che per carità non si può parlare di cipolle né di aglio, ma la cipolla è un prodotto straordinario. Chi non ama la cipolla credo che di cucina ne possa parlare non completamente al 100%, perché arriva in tantissime ricette importanti e poi può venire usata in tantissime maniere. Ma abbiamo un altro radioascoltatore, Mimmo da Brindisi. Buongiorno Mimmo. Buongiorno, buongiorno. Prego. Niente, secondo me volevo dire che c'è un'imperfezione sul fatto della cipolla sponsale, ma lei sta parlando della cipolla normale, grossa? Ma guardi, perché, non io, perché era l'autore della ricetta, io non ho parlato. La cipolla sponsale ha una tipologia diversa dalla cipolla normale, cioè è tipo un porro, capisce? Sì, sì, benissimo. Sì. No, con, con un bulbo un po' più piccolo e un po' più intenso di profumo e di sapore, vero? Sì, che praticamente deriva dalla cipolla dell'anno prima, cioè la cipolla grossa che viene piantata l'anno successivo e che non ingrossa più praticamente, quindi viene una cipolla tipo un porro così. È quella che fa un po' meno piangere, vero? Perché l'invecchiamento... È molto dolce, si mangia pure il gambo praticamente, un po' di gambo, no? Beh, mi sembra che la regione Puglia hai fatto di cipolle, perché sto pensando anche agli ambagioni. Noi la mangiamo con le uova, che è ottima. No, volevo correggere solo questa intercezione, perché mi è sembrato di capire che ti parlasse di cipolle normali, no? Però non è una cipolla normale. No, ma guardi, questa ricetta appunto di un suo conterraneo che è stata scelta tra le quattro, questo Giovanni Carbonara, che ci ha spiegato appunto questo calzone, l'ha messa nel ricettario, nella sua ricetta, quindi per questo comunque la ringraziamo molto del suo intervento che ha spiegato. Devo dire che in Italia, diciamo, abbiamo una varietà di cipolle davvero molto importante, perché sempre, diciamo, in Sicilia abbiamo la cipolla bianca di Giarratana, che è la mia preferita, poi c'è ancora quella in Toscana di Treschietto, di cui parleremo, c'è quella di Cannara, insomma c'è quella di Breme, di cui parleremo anche fra poco, perché discuteremo di questa ricetta Moeche e Soglioline di Laguna in Saor, di Achille Cester, di Rivanazzano in provincia di Pavia, ma è originario di Chioggia. Quindi sentiamo, se fosse in ascolto, prego di intervenire, però io do la parola a Davide, perché certo, ha letto questa ricetta, sentiamo cosa ne pensa. Allora, anche questa è molto interessante, perché riprende un po' il metodo del carpione, o come chiamano a sud, dello scapece, perché ci sono delle moeche abbinate alle sogliole, quindi c'è una frittura e poi una conservazione, tra virgolette, fatta con aceto, fatta con un tocco, vedo anche di Grand Marnier, aceto di mele, aceto di vino bianco, quindi è più, una volta questa tipologia di cottura si usava per conservare, adesso è una ricetta che può essere servita subito. L'unico piccolo accorgimento che potrei suggerire per renderla ancora più leggera, siccome nella ricetta si parla di leggerezza, è quello di friggere le moeche con un olio giusto, ma magari le sogliole passarle leggermente a vapore per renderlo ancora più leggero, anziché friggere entrambe in olio. E poi vedo che è una ricetta molto molto intelligente, perché la premessa sopra leggo che lui fa questa ricetta per far sì che quando arrivano gli ospiti possa essere seduto anche lui a tavola, e sappiamo noi italiani quanto sia importante la convivialità e quanto sia importante lo stare a tavola con gli amici. Bene, vediamo che il livello delle ricette è veramente molto molto importante, però in questo ricettario, in questa ricetta di Achille Cester, che magari non è in linea, però se è in linea 800240024, eccolo qua. Achille, buongiorno. Buongiorno Paolini, buongiorno. Bene, ha sentito allora che complimenti le sono stati fatti sulla sua ricetta? Sì. Grazie mille. Ma lei cucina tutti i giorni oppure solo per gli amici? No, cucino per i miei figli. Io queste ricette le perfeziono specialmente per la vigilia di Natale, perché per tradizione invito sempre gli amici dei miei figli e i genitori e cerco di fare un piatto che mi permetta di metterli a tavola tutti senza dover fare avanti e indietro con la cucina. Bene. Bravo, bravo, complimenti. Bene, ha sentito, complimenti da un grande chef, però rimanga in linea, perché lei parla di cipolla di Breme, e noi abbiamo il sindaco di Breme, che è, diciamo, colui che difende appunto a spada tratta, quanto mi hanno detto, la cipolla di Breme. Buongiorno Franco Berzero. Buongiorno a lei, allo chef e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Di Radio 24, naturalmente ad Achille, che nella ricetta ha inserito la nostra cipolla e mi fa molto piacere. Senta sindaco, ma questa cipolla di Breme cosa c'ha di peculiarità rispetto alle altre cipolle? Ecco, rispetto alle altre cipolle, dunque la peculiarità è sicuramente dolcissima, croccante e digeribilissima soprattutto. È una cipolla millenaria, viene coltivata ancora oggi manualmente, quindi con un ciclo che va al di là di tutte le cipolle che io conosco, nel senso un ciclo industriale, mentre noi abbiamo una produzione del seme in loco, la semina in semenzaio, il trapianto, la coltivazione, e non vengono utilizzati naturalmente mezzi meccanici, e la raccolta, quindi anche la raccolta viene fatta a mano. Anche la pulizia dei campi durante il ciclo produttivo viene fatto rigorosamente a mano con 3, 4, 5, 6, 10 persone che si mettono lì e tolgono tutte le erbate, tutto quello che si deve togliere. E quindi è una produzione, diciamo, limitata, siamo sui 1000 quintali, anche se 50-60 anni fa se ne producevano addirittura 10.000, ma era un'altra cipolla, la cipolla bianca, che si conservava molto di più. Questa qua è una cipolla detta dolcissima, diciamo, dagli avventori, ed è molto apprezzata. Poi mi piacerebbe che Achille, che appunto utilizza il nostro prodotto sia lui a dire le peculiarità del nostro prodotto, ecco. Bene, grazie Franco Berzero, sindaco di Breme, di questo suo intervento. Ma sentiamo Pasquale da Brindisi, un radioascoltatore. Buongiorno Pasquale. Sì, buongiorno a voi. Vorrei dare una ricetta per quanto riguarda lo spunzale, è un modo vecchio di cucina che ricordo che faceva mia nonna. Viene fatto al fuoco, poi insieme ai pomodori gialli, un tipo di pomodoro che cresce giù nel Brindisino, viene arrostito appunto alla brace e poi viene aggiunto a freddo dell'olio, delle olive nere e peperoncino. E si mangia così tranquillamente, sono squisiti. Bene Pasquale, grazie Pasquale da Brindisi, fuori concorso, però ci ha dato anche lui una bellissima ricetta. Devo dire che quando parliamo di prodotti del territorio veramente si scatenano i vari territori e le varie regioni, perché abbiamo già ricevuto 4 telefonate appunto dalla Puglia e ne abbiamo anche un'altra che mi dice: la cipolla di Tropea c'è solo esclusivamente a Tropea, da maggio a settembre a 20 km di distanza non è già più la stessa cipolla, un vero miracolo della natura, ci dice Nico. E sembra di essere un campionato di calcio, perché succede sempre, ma magari anche se quando parleremo di Treschietto, la cipolla di Treschietto in Toscana, succederanno che i toscani telefoneranno, oppure la cipolla di Cannara, magari gli umbri si faranno via. Ma sentiamo anche Maura da Cagliari. Buongiorno Maura. Buongiorno, sono Maura, sono nata a Biti, vicino a Nuoro. Noi facciamo un piatto speciale che è, per me è molto delicato, è un piatto contadino, perché raccogliamo la cipolla che si chiama apara. Ah. È una cipolla piccolissima, con la testa molto piccola, però ha un fiorellino molto delicato, per cui bianco, è molto facile incontrare vicino ai fiumi. Quindi viene semplicemente ripulita e utilizzata con le uova, e soprattutto con la salsiccia tipica nuorese. Senta, ma quindi quel fiorellino molto delicato, veloce, profumatissimo. Senta, quel fiorellino che ha detto che cresce, cosa si può fare, l'insalata, si può fare qualcosa oppure no, oppure non è mangiabile? No, le dicevo, prepariamo questo, si prepara il soffritto di cipolla, sì, che è cosiddetta apara, che è dolcissima. No, ho capito che la cipolla si chiama apara, ma lei ha detto che sopra questa cipolla piccolissima nasce un fiorellino. Le chiedevo se è mangiabile. No, è la testa, è il fiore proprio della cipolla. Ah, ho capito, benissimo. Grazie, ma volevi intervenire, Davide? No, è interessante il fatto che nasca sul bordo dei fiumi, quindi mi interessava sapere un po' la stagione di questo prodotto. Solo primavera. Bene. Sì. Benissimo. Grazie. Ora sentiamo Alberto da Roma. Buongiorno, radioascoltatore. Buongiorno. Io volevo dire, a parte l'eccellenza, la squisitezza dell'alimento, anche curativo, perché ho curato una mia colite vecchia con un anno di cipolla lessa e arrosto, e da quel periodo non ho avuto più disturbi di nessun genere. Ho capito. Bene, è anche curativa. Bene, abbiamo scoperto da Alberto di Roma che è anche curativa. Ma sentiamo Valeria dalla provincia di Bologna, un'altra radioascoltatrice. Buongiorno Valeria. Buongiorno. Io volevo solamente dire che anche noi a Bologna e a Medicina principalmente coltiviamo la cipolla. E la nostra è una cipolla tipica di Medicina. Abbiamo 700-800 ettari vocati a questa cultura. E proprio questo fine settimana, sabato e domenica, Medicina è in centro con la loro sagra, con la nostra sagra Medicipolla. Bene, Valeria, guardi, fra poco, se lei rimane in linea, abbiamo il suo famosissimo concittadino che interverrà a parlare di cipolla. Abbiamo lo chef Bruno Barbieri, che appunto è di Medicina, ci parlerà di questa cipolla. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, cipolla, sempre cipolla, fortissimamente cipolle. Ebbene, abbiamo con noi, l'ho nominato prima, da Medicina, From Medicina, Bruno Barbieri. Buongiorno Bruno. Ciao, buongiorno Davide, buongiorno a tutti i tuoi radioascoltatori. Ti saluto anche Davide Oldani, che è qui con me. Ciao Davide, ciao. Allora, ciao. Tu hai scritto un libro, Cipolle buone da far piangere. Esatto. Beh, come mai hai scritto questo libro sulla cipolla? Perché abbiamo sempre considerato un po' la cipolla come la cenerentola della cucina, no? Quel prodotto che comunque è sempre stato così un po' bistrattato da tutti, in realtà è sempre stato usato da tutti e voglio dire, piace molto. Pensa che la cosa impressionante è che lo troviamo già negli affreschi nel mondo egizio, quindi addirittura veniva, diciamo così, quando mettevano le mummie dentro nei sarcofagi, cioè trovavamo già le cipolle lì, quindi voglio dire era un simbolo anche molto importante, molto forte, e di conseguenza poi dietro a tutte queste storie, poi io sono nato a Medicina, un paese dove la cipolla la fa da padrone, sono nato in mezzo ai campi, pensa che da ragazzino le andavo anche a raccogliere per prendere i soldi per andare al mare, quindi puoi immaginare che rapporto ho con la cipolla. Infatti è intervenuta una tua concittadina prima di te per segnalare che c'è la sagra della cipolla, credo, nei prossimi giorni. Esatto, che pensa che stanno preparando e si stanno organizzando per fare la frittata con le cipolle più lunghe del mondo. C'è una roba che solo dei medicinesi che può venire in mente di fare un numero così. Comunque devo dire che la cipolla è una cosa straordinaria, mangiata in tutte le maniere. A me piaceva moltissimo il fatto, per esempio, di andarle a spigolare, che è un termine dialettale, e che si andavano a raccogliere le cipolle dopo la raccolta, cioè quelle piccolissime che erano quelle che poi venivano messe sotto aceto, sotto olio, e quindi erano meravigliosamente un prodotto straordinario. Bene, rimani con noi, Bruno, rimani con noi, perché ora voglio passare di nuovo la parola a Davide Oldani, che ha analizzato questa ricetta, insalata di cipolla di Tropea, ancora la Tropea, Marina Vigliotti di Livorno. Quindi se Marina Vigliotti fosse in ascolto, prego di chiamare, che facciamo anche quattro chiacchiere con lei. Davide. Ecco, allora, devo dire bene, perché è una ricetta che può essere interpretata anche, la signora dice, come entrè, quindi come un antipasto, e credo che sia molto bello questo, e non vedere solo la cipolla come contorno o come qualcosa che vada a completare un altro piatto, ma fare un po' l'ingrediente importante del piatto stesso. Qui ho visto che ci sono un po' di ingredienti, sono molto d'accordo sul fattore di mettere un po' di peperoncino, un po' di agrume che dà acidità, e poi il trattamento di una cucina di un contorno molto molto leggero. Bene, e quindi se fosse ancora in linea può chiamare quando vuole la nostra radioascoltatrice. Abbiamo con noi, abbiamo parlato di diverse cipolle italiane, come ho detto prima, e allora abbiamo Carlo Sirci, che è produttore di cipolla di Cannara. Cannara è in provincia di Perugia, e voglio ricordare che è il paese natale di uno straordinario chef che ricordo sempre con tanto tanto piacere, che è Angelo Paracucchi. Buongiorno Sirci. Buongiorno a voi radioascoltatori, buongiorno. Che caratteristica ha la cipolla di Cannara? Beh, la cipolla di Cannara è storicamente, ormai ha una storia lunga alcune centinaia d'anni, è una cipolla, la nostra è invernale, è una cipolla secca che si raccoglie il mese d'agosto, i primi di settembre, e si conserva fino a primavera inoltrata senza frigoriferi. È una cipolla molto servevole, poi rimane dolce, succulenta, e è molto apprezzata infatti da molti chef. E quindi diciamo molti chef, a cominciare sicuramente da Paracucchi, immagino. Beh, Paracucchi è stato un promotore, certo. Posso dire, divulgare, Paracucchi è stato anche uno della famosa vernaccia di Cannara. È stato certo, bene. Bene, il campanilismo è sempre, sempre importante, grazie a Carlo Sirci, appunto l'ennesima cipolla italiana, come ho detto ce ne sono ancora tante che andremo a scoprire. Mi spiace non aver trovato nessun produttore di Giarratana, della cipolla di Giarratana, perché è una cipolla molto interessante, ma sentiamo Giuseppe da Roma, radioascoltatore. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a lei. Prego. Vi volevo segnalare che, a parte che la uso e la usavamo in famiglia abbondantemente da sempre, faccio un uso della cipolla per preparare delle salse. In particolare vi segnalo quella che faccio con uno yogurt che autoproduco, il kefir, e ci metto tanta cipolla, tanto cetriolo fatto a pezzettini, tutto con il mixer, e si ottiene una salsina che è semplicemente spettacolare. Bene, grazie. Cominciamo allora, la ringrazio. Continuiamo. Saluto. Grazie tante. Continuiamo con l'ultima, diciamo, ricetta, tesorini di cipolle di Cristina Fantini. Cristina, se sei in linea, batti un colpo e passo la parola a Davide Oldani. No, questa mi fa un po' sorridere, è un po' più poetica questa. Non sono mai d'accordo sui nomi così di fantasia nel descrivere i piatti, anche perché poi si mette in confusione l'ospite, l'amico o il cliente, nel mio caso del ristorante. parte. Devo dire che gli ingredienti ci sono tutti, credo che sia una buona ricetta perché viene trattata la cipolla con la zucchina e comunque con delle cotture a vapore, quindi quasi da insalata. Non sono molto d'accordo sul fatto di mettere un insaccato dentro a un bel prodotto quale è già la cipolla o sì, la zucchina. Sì, la mortadella mette, mi sembra. Sì, no, la mortadella ci può stare, però in questo caso farei una cucina del levare, una cucina italiana del levare, quindi da una ricetta classica che potrebbe essere questa andrei a levare magari il pezzo di carne o andrei a levare anche il couscous, quindi il carboidrato, lascerei proprio integre quelle che sono le caratteristiche del vegetale. Bene, capito Cristina Fantini, che hai vinto 12 guide del gastronauta come tutti gli altri appunto che sono stati selezionati, e devo dire che avevamo stabilito di rimanere con queste, diciamo, col personal chef fino al giorno 20, al sabato 20, e abbiamo deciso di prolungare fino al 27 visto, diciamo, il successo dell'arrivo di ricette. Poi la ricetta del 27 decideremo quale ingrediente. Ora Mauro da Brescia, un radioascoltatore, buongiorno Mauro. Buongiorno a voi. Io pongo una domanda da neofita totale, quale sono. Volevo semplicemente capire le differenze nell'utilizzo in cucina fra la cipolla e lo scalogno, perché ho visto che qua fra amici si fa molta confusione. No, è che è un po' più gentile lo scalogno, perché poi è un incrocio, lo scalogno non è una verdura come può essere la purezza della cipolla. Io posso dire solo che a seconda del proprio gusto si assaggia o uno o l'altro e poi lo si possa utilizzare in qualsiasi situazione. Quindi dipende proprio dal gusto personale della persona, scusate il giro di parole. Dipende lo scalogno è un po' più delicato. Dal suo, no, dipende, perché se lei uno scalogno lo tratta e fa un grosso soffritto diventa non più delicato anche lo scalogno. Se la cipolla la sbianchisce leggermente e poi fa un soffritto ha la delicatezza che può avere uno scalogno. Quindi dipende proprio dal suo gusto personale. Beh, siccome tutti fanno del campanilismo, lo faccio anch'io, ricordo lo scalogno della mia terra di Romagna, che sicuramente è il migliore. Bruno, tu cosa ne pensi? È così sullo scalogno? Assolutamente sì, condivido molto quello che ha detto Davide, anche quello che ha detto Davide in precedenza sui nomi delle ricette, però io dico questo sulla cipolla, trovo che la cipolla abbinata per esempio con la frutta in questo periodo, con le pescacerbe, con queste frutte un po' così a sprigno, un po' dure, un po' croccanti, trovo che sia un abbinamento straordinario. Poi da lì possiamo aggiungerci molti altri ingredienti. Condivido il fatto che con i salumi, gli insaccate, queste robe così, anzi direi quasi no, e quindi condivido, ma sai, sei vicino a un grande chef e quindi di conseguenza non ne serve un altro. La cipolla è un prodotto straordinario. Beh, non ti tirar giù Bruno, su. No, la cipolla, è un prodotto straordinario, ha qualche piccolo problemuccio quando la mangiamo crudo per l'alito, però basta mangiarsi qualche chiodo di garofano di traverso. ecco. Vero, o schiacciarlo sotto i denti. ecco, abbiamo anche, diciamo, l'ingrediente per poter recuperare. Bruno Barbieri, grazie. Io ricordo il tuo libro Cipolle buone da far piangere, edito da Biblioteca Culinaria. Grazie. Davide, una piccola precisazione sul fatto della cipolla, che è considerata oramai nei ristoranti un prodotto molto importante, e per mantenere quello che è l'etica di un menù ben composto, credo che almeno un piatto con la cipolla in un ristorante ci debba essere. Uno poi può scegliere se fare il soffritto in un riso o fare la cipolla caramellata che noi facciamo al do, però spetta di diritto il menù, nella carta di un ristorante, un piatto con la cipolla. Bene, abbiamo Marina da Livorno, l'autrice della ricetta insalata di cipolle di Tropea. Marina, buongiorno. Buongiorno a voi. Ha sentito i complimenti che sì, le ha fatto? Sì, ho sentito, la ringrazio sentitamente, proprio mi ha fatto molto piacere, anche perché la cipolla è un prodotto a volte un po' bistrattato. Senta Marina, perché... ma volevo chiederle questo, lei cucina normalmente, cucina tutti i giorni? Sì. Sì, cucino normalmente, sono appassionata e ogni tanto sperimento qualcosa, così. E avevo pensato a questa ricetta proprio per levare quell'acuto della cipolla che molti non amano, no? Magari ho degli ospiti a casa che non amano la cipolla, per fargliela un po', diciamo, ritrovare. Ho capito. Sempre chiedere agli ospiti. Io l'amo molto, come l'aglio, io adoro anche l'aglio, sono... Non posso stare senza, diciamo, nella mia cucina. Bene, grazie Marina. Allora ha vinto 12 guide del gastronauta che le saranno, grazie, appunto. Complimenti Marina. Grazie, buona giornata. Eleonora da Prato, una radioascoltatrice. Buongiorno Leonora. Buongiorno, ecco, io volevo dire su una ricetta che mi hanno insegnato, che sono gli spaghetti con le cipolle di Tropea. Bisogna prendere molte cipolle, farle a fettine, poi metterle sul fuoco con del brodo e si lasciano cuocere per almeno una mezz'ora nel brodo. E poi dopo si finisce la cottura per un'altra mezz'ora abbondante con del vino rosso. E le cipolle vanno quasi niente, diventano quasi una crema e poi si condisce la pasta asciutta. E sono una cosa deliziosa, veloce da fare. Bene. E non faticosa, ed è veramente, io l'ho proponata a molti amici delle varie parti d'Italia che non l'avevano mai sentita. E devo dire, tutti mi hanno richiesto, ma falla di nuovo. Bene, Eleonora, ci sono alcuni cuochi diventati famosissimi per gli spaghetti al cipollotto. A cominciare Aimo, diciamo, Aimo, che ha inventato questo piatto che veramente è stato copiato un po' ovunque. Credo senza vino rosso però, Davide. Sì, forse sì. Sì, la signora l'ha personalizzata, sì, con un goccio di vino rosso e complimenti. Elisa Malatesta, buongiorno, produttrice della cipolla di Treschietto. Buongiorno a voi. Cosa c'ha di particolare la cipolla di Treschietto? La cipolla di Treschietto, la particolarità innanzitutto che è un colorino rosa e molto delicata, e la particolarità che ha una bella polpa consistente, e è una cipolla che è adatta a far tutto, si può cucinare, si può mangiare cruda, cotta, in tutte le maniere. Bene, affrontare un attimo il discorso del prezzo sulla cipolla, se ci danno due indicazioni. Quanto viene al chilo a Treschietto sul posto? La nostra cipolla quest'anno ha avuto un po' un'impennata di prezzo, in quanto purtroppo siamo stati colpiti da forti alluvioni, quindi abbiamo dovuto ritrapiantarle per la seconda volta, quindi un aumento eccessivo di manodopera, dovuto al fatto che la cipolla già in partenza la manodopera è alla base della sua produzione. Noi siamo come prezzo a 3,50 € al chilo. Bene. La nostra cipolla si riconosce, a parte la particolarità di questa bellezza proprio estetica, sì, che ha, e poi noi abbiamo apposto il nostro marchio, un marchio registrato nel 2004 che stiamo portando avanti. Bene, grazie Elisa Malatesta. Il gastronauta. Eccoci sul finale. Allora, sul finale abbiamo sentito le ricette. Ecco, e abbiamo con noi un altro grande, importante chef, un personaggio molto, molto particolare, che si chiama Cesare Giaccone, la bottega di Cesare dal Baretto della Torre. Buongiorno Cesare. Buongiorno signor Pavlini. Buongiorno. Allora Cesare, tu hai avuto... Ti saluta anche Davide Oldani che è qui con me. Cesare, la tua ricetta della cipolla, ce la ricordi? Altro che? Prego. Allora... Si prende una cipolla bionda, delle cipolle bionde, si immergono nel sale grosso, si mettono in forno per circa un'oretta e un quarto a 160 gradi, si ritirano dal forno, si lasciano raffreddare, si svuotano, lasciando tutto la parte interna. Sì. Esterna, voglio dire, non interna. Poi si fa una balsamel, prima si prepara una balsamel densificata, si aggiunge il ripieno di questo volcro che si è tolto dalla cipolla, si trita, si aggiunge alla balsamel, abbondante parmigiano, in questo caso è molto importante un grande parmigiano, un 36 mesi. Bene. Un parmigiano reggiano di ottima qualità, e si impasta tutto, si riempiono le cipolle, a freddo si ripassano in forno, gratinandole leggermente, con la parte della crosta del parmigiano che rimangono come cappelli, si appoggiano sopra e rimane la cipolla totalmente come prima. Bene. Mi sono spiegato? Cesare, ti sei spiegato benissimo. Voglio chiedere anche, tu ora non sei aperto tutti i giorni alla bottega, appunto, di Alberetto della Torre. Quali sono i giorni che sei aperto? Ma io sono aperto su prenotazione. Ah, ecco. Quando capita la prenotazione, che capita la persona che ha piacere di venire da me, è un minimo di 4 persone, un massimo di 12 persone. Bene, Cesare. Grande Cesare, un abbraccio. Un abbraccio, ciao. Abbiamo anche con noi Paola Calciolare delle Tamerici, che è questa azienda che fa diversi prodotti a base di cipolla con grande successo, vero Paola? Sì, Buongiorno Davide, noi facciamo una confettura di cipolla rossa e questo è il nostro primo prodotto venduto. Utilizziamo una cipolla rossa di Tropea, e in particolar modo una cipolla fresca, un cipollotto lo preferiamo sempre in quanto rende molto più delicato il prodotto finale, e questa confettura viene poi addizionata con la nostra scorza d'arancia che candiamo noi e della uvetta passa. Ecco, prego. Ecco, l'arancia è molto importante in quanto anche questa non solo addolcisce ma dà quella bella aromaticità al prodotto finale. Ecco, io l'ho vista accostata con moltissimi piatti, col foie gras, sì. L'ho vista accostata, sì, certo. Anche con altri piatti. Tu cosa consigli? Quale accostamento consigli? Guarda, io c'è stato un consumatore che mi ha detto che addirittura al mattino a colazione la mangiava, quindi ormai è difficile, è molto molto difficile dare un giudizio, e soprattutto l'abbinamento, sicuramente un formaggio stagionato, un abbinamento forte, un salume. Una domanda, grasso. posso una curiosità, sì. Le cipolle, sì, certo. fanno siccome anch'io ne uso tante nel mio ristorante, sì. Fanno ancora piangere così come una volta nell'utilizzo tanto. Di tutti i giorni? Tanto, ma secondo me è meno di un po' di anni fa, non so per quale motivo. Soprattutto quando ne fai, però dopo c'è da dire, hanno il vantaggio che una volta messe in lavorazione, dopo una decina di minuti, insomma, l'ambiente si satura, anche noi ci abituiamo, quindi la lacrimazione si blocca e quindi insomma dopo diventa anche una cosa un pochino più semplice. Sicuramente i grossi quantitativi possono dar fastidio. Grazie Paolo, siamo pieni, enorme, le telefonate che sono arrivate solo sul finale, io non so se riuscirò a prendere tutte. Grazie. Dai, ricordati sempre che noi amanti abbiamo una cipolla di Sermide molto molto particolare, buona, e anche questo è un prodotto del nostro territorio. Quindi oltre il melone di Sermide c'è anche la cipolla di Sermide. Sì. Benissimo. Sì, c'è una cipolla di Sermide e si fa una sagra, in particolare del Tirot, perché c'è questa focaccia particolare fatta con questa cipolla, è una cipolla bionda, Tirot, perché è un composto molto tenero, colloso, che viene disteso addirittura nelle placche senza usare un mattarello, con una grossissima, un 50% di cipolla sull'impasto, quindi direi che la presenza cipolla è molto molto particolare e consistente. Grazie Paola. Grazie Paola. Grazie a voi. Bene, abbiamo in collegamento Cristina da Milano, l'autrice di Tesorini di Cipolle. Buongiorno Cristina. Pronto? Buongiorno Cristina. Buongiorno Paolini, buongiorno, piacere di conoscerla. Buongiorno Cristina. Buongiorno. Sono Davide Oldani. Chef Davide, buongiorno Pani. Lei ha sentito il commento che ha fatto Oldani? Guardi, purtroppo non l'ho sentito perché... Non si sente. Cristina, mi spiace, l'abbiamo ripersa. Io ho molte telefonate. Giuseppe dalla provincia di Bari, buongiorno Giuseppe. Ciao, buongiorno, volevo segnalarvi la cipolla rossa di Acquaviva, Prestigio Slow Food ed è anche marchio prodotti di qualità Puglia. Bene, ho ricevuto anche molti sms sulla cipolla di Acquaviva, è in provincia di Bari l'Acquaviva? Sì. Benissimo. Sì, provincia di Bari. Bene, sentiamo Giovanni da Napoli, buongiorno Giovanni. Buongiorno a lei e veramente complimenti per la trasmissione, la cipolla che viene riscattata da un ruolo di cenerentola della cucina invece è una bella principessa. Io volevo segnalare la raccolta di una cipolla naturale che avviene nel sud dell'Italia, sì. Si chiama la cipullizza, è una cipolla molto piccola, diciamo della dimensione di uno scalogno più o meno, sì. E viene raccolta naturalmente esclusivamente a mano con uno zappino, è ricercata nelle montagne, dei boschi della Basilicata, in Sila, dove viene anche commercializzata ed è una cipolla dal retrogusto amaro e si abbina a molti piatti, le carni, e in Calabria viene usata con la sardella. Che è un Beh sì, la sardella, bene. Benissimo, la sardella buonissima, devo dire, oppure chiamato anche caviale di crucoli. Sentiamo Alfredo da Milano, veloce Alfredo, ho solamente 30 secondi. Subito, pronto? Non ho sentito parlare della cipolla di Bonanno. No, questo proprio. Le confesso la mia ignoranza su questo, ecco, anche se di cipolla il 17 luglio in Sardegna quasi a nord di Sassari, c'è una festa bellissima su questa cipolla stupenda, bianca, che si può mangiare anche cruda. Io l'ho scoperto 2 anni fa ed è una cosa fantastica, ma non l'ho trovata nemmeno da ingegnere. Bene, allora ecco, cipolla di Bonannaro. Bonannaro. E dov'è Bonannaro? In Sardegna, a nord di Sassari, proprio nelle vicinanze. Il 17 luglio c'è una festa. Bene. Magnifica. Grazie Alfredo, ecco, grazie. Grazie. Mi spiace che Cristina Fantini, che con Tesorini di Cipolle, diciamo, è una delle 4 vincitrici, e non siamo riusciti più a recuperare la sua telefonata. Comunque anche lei ha vinto le 12 guide. Io ringrazio tanto Davide Oldani della sua partecipazione, e lo ricordo, uno dei suoi piatti principali, diciamo più riconosciuti, è la cipolla, e quindi sicuramente vale la pena di assaggiarla. E ringrazio tutti i radioascoltatori e vi do appuntamento appunto domenica e sabato, e vi do appuntamento domani anche con il riposo del guerriero alle 11.40, dove darò alcuni suggerimenti come sempre su ristoranti, vini e prodotti ed altro. Quindi buon weekend a tutti da Davide Paolini. Grazie.